24, i gialli della storia. Gli americani erano furiosi. Quelle banche dovevano rispondere del loro operato. Un'inchiesta sulle verità politiche di una crisi finanziaria. Perché non abbiamo cacciato gli amministratori delegati di quelle società? Il salvataggio di quelle banche troppo grandi per fallire. Perché non possiamo imporre delle condizioni alle banche in cambio del loro salvataggio? Era come se Obama avesse due facce. In pubblico si scagliava contro i potenti banchieri. In privato voleva farli salire a bordo. Stiamo raccontando la crisi economica americana del 2008. L'amministrazione Bush si avvia alla fine del secondo mandato e nonostante qualche tentativo non si preoccupa di risolvere il problema in maniera drastica. Il ministro dell'economia Paulson decide di elargire centinaia di miliardi di dollari agli istituti di credito per evitarne il fallimento, ma sarà un intervento inutile e lontano dall'ipotesi di una soluzione. Intanto Barack Obama è diventato il 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America ed è sulle sue spalle, su quelle della sua amministrazione, che cadrà la responsabilità di decisioni difficili e probabilmente molto impopolari. A raccontare questa nuova fase della crisi qui a Mix 24 gli economisti Robert Shiller e Paul Krugman e Joseph Stiglitz, oltre ai collaboratori dell'amministrazione Obama. Chiudiamo la pagina sui festeggiamenti per le elezioni. Solo negli ultimi tre mesi la crisi economica ha bruciato 650.000 posti. Mancano 76 giorni alla cerimonia di insediamento di Barack Obama. È stata la transizione più densa di eventi e gravida di conseguenze della storia americana. Tutti gli occhi ora sono puntati su Barack Obama. A Chicago il neopresidente Barack Obama osserva l'economia precipitare in caduta libera. È come assistere a un incidente ferroviario a rallentatore. Ha dovuto cominciare a pensarci fin dal giorno dopo le sue elezioni. All'inizio della sua corsa alla Casa Bianca, Obama ha scelto un team di economisti riformisti. La squadra si era formata intorno a Barack Obama man mano che la sua candidatura prendeva quota. Chi c'era? C'era il liberal Robert Reich, già ministro del lavoro con Bill Clinton. C'era Joe Stiglitz, il primo di tutti ad annunciare l'arrivo della crisi. E nel bel mezzo, dall'alto dei suoi 2 metri e 7 centimetri, Paul Volcker. Per mesi i suoi consiglieri l'hanno informato e soprattutto messo in guardia. Obama aveva ben chiaro quello che si preparava. La catastrofe era alle porte. Nelle settimane successive alla vittoria, lo staff di Obama è sconvolto dalle notizie che arrivano da Wall Street. Eravamo tutti preoccupati da quello che vedevamo. Ci rendevamo conto che il sistema creditizio si stava avvicinando a qualcosa di molto simile al completo collasso. La disoccupazione negli Stati Uniti è quasi al 7% e continua a salire, quanto al mercato azionario ha già perso più di 6.000 punti. Cresceva la sensazione che stesse per arrivare la catastrofe. Rischiava di essere la crisi economica più acuta di tutta la storia americana. Eravamo vicinissimi al meltdown totale. Al termine dell'incontro ci siamo resi conto che non esistevano spiraglie. Dissi al presidente: accidenti, penso che nessun neopresidente abbia partecipato ad un briefing economico peggiore di questo nell'ultimo secolo. E lui non è neanche il peggiore della settimana. Citigroup, il cui titolo oggi è crollato del 26%, In quegli stessi giorni anche il colosso bancario Citigroup, sovraesposto e pieno di mutui tossici, si avvia al fallimento. Si sta avvaliando qualsiasi opzione, da una fusione a un eventuale fallimento. La situazione era molto dinamica, l'economia stava evaporando. L'amministrazione Bush smontava le tende. Questo è un intervento che esula dalle nostre competenze. A gennaio ce ne andiamo. E intanto non se ne occupava nessuno. Il governo federale si prepara a correre in aiuto di Citigroup con un'iniezione di miliardi di dollari. Harry Paulson, ministro del tesoro di George W. Bush, ha già stanziato 125 miliardi di dollari per salvare le maggiori banche di Wall Street. Ora, nel periodo di transizione, gli tocca sborsare altri 20 miliardi per tenere a galla un colosso come Citigroup. ma neanche questo basterà per evitare il disastro. Un giorno, studiando i libri di storia, quel periodo sarà uno di quelli per i quali ci chiederemo: ma che stavano facendo? Perché non succedeva niente? Perché non c'era nessuna volontà da parte della politica di fare qualcosa? La ragione è semplice: non c'era nessuno che comandasse, non c'era veramente nessuno che decidesse. Ora però, nelle settimane di transizione, a Chicago il neo presidente Obama è chiamato a una scelta cruciale. Quale squadra scegliere per attuare il suo programma economico? Le voci si rincorrevano. Chi sarà il ministro del Tesoro? Chi guiderà il Consiglio economico nazionale? Chi farà cosa? Da questa decisione l'America avrà la prima chiara indicazione. Capirà se Barack Obama intende allearsi con chi vuole riformare Wall Street o piuttosto con chi vuole rifondarla. Secondo alcuni esponenti della sinistra, Obama avrebbe dovuto nominare un regolatore che affrontasse a muso duro Wall Street, qualcuno che mettesse in castigo il mondo della finanza per conto del tesoro. Paul Volcker è sicuramente molto vicino a sinistra il primo candidato è Paul Volcker. Temutissimo a Wall Street, Volcker è il capo carismatico dei riformisti. Già presidente della Federal Reserve, fermo sostenitore della regolamentazione, Volcker non ha mai risparmiato critiche alle banche di Wall Street. Volcker è stato il principale artefice di una svolta storica che negli ultimi 30 anni ha prodotto il calo dell'inflazione e dei tassi di interesse. Per Obama, scegliere Volcker significherebbe concretizzare la promessa di riformare gli istituti bancari e usare il pugno di ferro contro Wall Street. Ma all'interno dello staff della transizione c'è anche un'ala più moderata. Sono i veterani dell'amministrazione Clinton e anche loro hanno un candidato. Non potevi permetterti il lusso di scegliere qualcuno che non fosse il più preparato, il più competente, il più adatto a quell'incarico. Tim Geithner era la persona ideale. Tim Geithner, il presidente della Federal Reserve a New York. Durante la crisi è stato lui a dirigere la risposta dell'amministrazione Bush a Wall Street. Geithner ha 47 anni, ma ne dimostrava una trentina. Geithner è estremamente sveglio, estremamente competente, molto discreto, controllato. Wall Street guarderà con molta attenzione all'amministrazione entrante. Da Chicago, Obama spera di rassicurare i mercati. Timothy Geithner, 47 anni, 13 anni. Il suo ministro del tesoro sarà Tim Geithner. Un altro uomo di apparato, Larry Summers, ex ministro del tesoro di Clinton, sarà invece il consigliere capo del presidente per l'economia. Obama l'ha definito una delle migliori menti economiche del nostro tempo. Obama ha cercato sempre uomini dell'establishment. Si rivolgeva all'establishment per avere degli input, per averne addirittura l'approvazione. Sicuramente per lui era molto importante risultare credibile agli occhi dell'establishment. Summers è stato presidente dell'Università di Harvard. Soprattutto ha guadagnato milioni di dollari lavorando ad un hedge fund. Qualcuno obiettò a Obama che la scelta di quella squadra avrebbe rappresentato un problema. Sarebbe stata vista come una concessione agli interessi delle banche. Era come chiamare lo stesso idraulico che aveva provocato il guasto. Perché dovremmo credere che metteranno le cose a posto, o almeno che lo faranno nell'interesse del popolo americano e non delle banche? Per gli uomini di Obama, invece, quella scelta è un segno preciso. Il nuovo presidente non ha nessuna intenzione di perdere altro tempo. L'idea del presidente era: devo prendere gente che sappia subito cosa fare. La situazione è troppo pericolosa. Gennaio 2009. Il presidente e il suo staff economico arrivano alla Casa Bianca. Io, Barack Hussein Obama, giuro solennemente. Adesso la crisi è nelle loro mani. È come quando vai ad abitare nella casa nuova e trovi il tetto in fiamme, la cantina allagata, in cucina c'è puzza di gas e in giardino c'è un grosso cane mai visto. Come fai a rendere vivibile quella casa? Non lontano dalla Casa Bianca, al Ministero del Tesoro, anche Tim Geithner sta ultimando il trasloco. Lui però non ha ancora scelto il suo staff. Andavi sul sito del tesoro per vedere chi copriva questa o quella carica e trovavi vacante, vacante, vacante, vacante, vacante. Come se stessero cercando di capire quale chiave aprisse la porta per entrare negli uffici. Erano quelle le persone che dovevano elaborare un piano per salvare il mondo. È presente anche uno dei sottosegretari di Geithner, Lee Sachs. La nostra idea era che il sistema finanziario andasse stabilizzato. Bisognava trovare il modo di fermare quella caduta libera. Per avere un'economia che funziona, serve un sistema bancario che funziona. Il nostro compito era stilare dei piani per risolvere il problema. Fino a poche settimane prima, Geithner è stato di casa in quegli uffici. Erano i giorni in cui l'amministrazione Bush finanziava con miliardi di dollari il salvataggio delle banche, ma neppure quei miliardi sono bastati. E ora tocca alla Casa Bianca di Barack Obama fare qualcosa. E subito. La Casa Bianca disse a Geithner: bisogna dire qualcosa al popolo americano, bisogna dire qualcosa ai mercati finanziari. Pronti o non pronti, dovete farvi vedere e mettere in piazza quello che fate. So benissimo quanto il presidente sentisse l'urgenza di mostrarsi produttivo, di far vedere che faceva il possibile per uscire da quella situazione prendendo dei provvedimenti. Voleva dimostrare che era consapevole della portata del problema e che sapeva come affrontarlo. 9 febbraio 2009, il presidente degli Stati Uniti promette che Tim Geithner sta preparando un piano per salvare l'intero sistema finanziario. Buonasera a tutti. Il mio ministro del tesoro, Tim Geithner, in collaborazione con il mio consigliere per l'economia nazionale, Larry Summers, e altri, stanno preparando il miglior piano possibile per un saggio uso di questi soldi. Il presidente Obama alimentava aspettative molto alte. Il messaggio che trasmetteva con quella conferenza stampa era: domani il ministro del tesoro, Tim Geithner, ci comunicherà il piano per salvare il mondo. Domani il ministro del tesoro, Tim Geithner, renderà noti alcuni piani molto chiari e dettagliati con i quali intendiamo cominciare ad allentare la stretta sul credito. Tim Geithner era pronto a presentare il piano per rimettere in piedi le banche. Ma non voglio svelare quello che Geithner avrà da dire. Voglio che alla sua conferenza ci siate tutti. Sarà straordinario. Il presidente disse che Tim Geithner avrebbe presentato un piano che conteneva un rimedio prodigioso. Ma al Ministero del Tesoro Geithner non è pronto. Il suo discorso deve essere ancora rivisto. Larry Summers, consigliere economico del presidente, non è affatto contento. La scadenza si avvicinava e a Larry Summers cominciavano ad arrivare le bozze del discorso. E Summers commentava: non è un linguaggio appropriato per un ministro del tesoro. Suona tutto un po', come dire, un po' dilettantesco. Non ha la dovuta solennità. Non penso proprio che una cosa del genere possa trasmettere fiducia in chi l'ascolta. Sale il nervosismo, si straccia tutto e si ricomincia da capo, sempre più freneticamente. Il giorno dopo è il momento del ministro Geithner. Era tutto pronto. Ospiti prestigiosi, telecamere, la stampa al gran completo. I mercati si aspettano qualcosa di forte, si aspettano un piano dettagliato. Entra il ministro e si vede subito che è nervoso. Arriva al podio davanti a due gobbi elettronici. Ti ringrazio di essere venuti. Iniziò a parlare, ma non aveva imparato bene a memoria il discorso. E per tutto il tempo spostò la testa da un gob elettronico all'altro. Il nostro piano aiuterà la ripresa del flusso di credito, aiuterà a ripulire e a rafforzare le nostre banche. Geithner non aveva mai fatto una conferenza stampa nazionale. L'opinione pubblica vedeva per la prima volta l'uomo a cui era stato affidato il compito di salvare la nazione dalla crisi. Geithner non aveva nessuna esperienza di comunicazione, di rapporti con l'opinione pubblica. Prima di diventare ministro del tesoro, non era mai comparso in televisione. Geithner sembrava un dodicenne. Non ha la stoffa del comunicatore e si vedeva chiaramente che non era pronto ad affrontare il grande pubblico. Con la storia della crisi economica americana del 2008 riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24. L'amministrazione Obama si è appena insediata, si trova a affrontare la crisi. È una crisi immensa che può mettere in ginocchio l'economia di tutto il pianeta. Barack Obama ha nominato Tim Geithner ministro del tesoro, lui sta studiando un piano di salvataggio. Ma Geithner non è un grande comunicatore, la sua prima conferenza stampa in cui illustra il suo piano lascia perplessi giornalisti e investitori. Per prima cosa chiederemo agli istituti bancari di sottoporsi a un completo stress test. Quello che i medici Il piano di Geithner si basa su quelli che egli definisce stress test. Agevoleremo questo processo attraverso un nuovo programma di capitali di supporto per gli istituti che ne avessero bisogno. Lo stress test serve al governo per verificare lo stato di salute delle più importanti banche d'America e, se necessario, correre in aiuto a quelle che ne abbiano più bisogno. Greg. Si trattava di mettersi al lavoro, raccogliere dati di sostanza e renderli pubblici quanto più possibile. Era un'iniziativa che favoriva una maggiore fiducia negli istituti bancari. A molti però il piano di Geithner pare del tutto inadeguato. Un flop tremendo. Più andavo avanti nel discorso, più su tutti i canali via cavo si vedeva il Dow Jones che perdeva centinaia di punti. Grazie a tutti di essere venuti. Finito il discorso, si voltò e se ne andò. Tutti, anche personalità del calibro di Ben Bernanke, si guardavano sconcertati. Beh, a questo punto possiamo andarcene. Qualche timido applauso ed è finita lì. I mercati risposero con un calo di quasi 400 punti nel giorno dell'annuncio. Una perdita di oltre il 4% solo quella giornata. Questo sarà il nostro ministro. Dopo il discorso di Geithner, i mercati continuano a scendere. Si avvicinano pericolosamente al record negativo dell'ultimo decennio. Forse non ha ancora le idee abbastanza chiare per spiegarlo a tutti noi. I mercati non reagirono come avremmo sperato. Erano state alimentate aspettative esagerate. Sinceramente, non avremmo dovuto permettere una cosa del genere. Dopo appena 3 settimane dall'insediamento, tutti già premono su Obama perché sostituisca il suo giovane ministro del tesoro. A Washington già non si parlava d'altro. Quanto durerà? Sarà il primo a fare le valigie? Obama dovrà cercare qualcun altro? In giro si cominciava a dire che Geithner non era all'altezza, che non era la persona giusta per quell'incarico. Avevano bisogno di un agnello sacrificale, doveva essere Geithner. Ma nello studio ovale Geithner oppone una fiera resistenza. Secondo lui bisogna andare avanti con gli stress test. Era una persona completamente diversa da quella che avevamo visto in televisione. Era convinto che quella fosse la strada da percorrere ed era fermamente deciso a farlo. Era imperturbabile. Con tutto quello che stava succedendo nei mercati, con l'economia in quelle condizioni, con tutta la pressione che ovviamente aveva addosso, non ha perso un colpo. Geithner spiega ad Obama i dettagli del suo piano. Lo stress test, che in sostanza è la soluzione proposta da Geithner, nasce dall'idea che se riesce a convincere i mercati che le banche faranno le brave, che il buco non sarà così grosso come indicano gli scenari più pessimisti, allora il panico diminuisce, torna la fiducia, i prezzi dei titoli risalgono e tutto si sistema. Qualcuno dubita che gli stress test possano bastare. Per ora però il presidente si schiera a fianco di Geithner. In quel momento Obama non poteva prendere le distanze da Tim Geithner. Era nella cosiddetta luna di miele e non poteva scaricare uno dei suoi. Ecco perché decise di sostenere Tim Geithner. Il presidente volle dare fiducia al ministro del tesoro, anche se lo pressavano da tutte le parti, perché correggesse la rotta. Sono portato a ritenere che quella sia stata una delle decisioni più difficili di quel periodo. Da mesi ormai il popolo americano è infuriato contro Wall Street. Bersaglio delle proteste sono manager come l'amministratore delegato di Lehman Brothers, Dick Fuld. Nelle città di tutta l'America si moltiplicano le proteste. A Chicago l'amministratore delegato di Bank of America, Ken Lewis, viene considerato alla stregua di un pericolo pubblico. Una di quelle vicende amministrazione Obama farebbe volentieri a meno. Anche a Washington l'ira contro Wall Street e gli aiuti statali alle banche sfocia in violente manifestazioni. E la rabbia non si limita alla strada. Anche il Congresso decide di dare una risposta all'indignazione dell'opinione pubblica. Il Senato convoca i vertici delle principali banche degli Stati Uniti. Sono sincere, i miei elettori sono furiosi come lo sono io. Cosa hanno fatto le banche con i soldi dei contribuenti? Non posso credere che nessuno vi abbia denunciati. Una scena agghiacciante, erano tutti allineati uno vicino all'altro. Credo che il pensiero della maggior parte degli americani sia andato ai capi delle multinazionali del tabacco. A quello eravamo arrivati, un intero settore dell'economia umiliato a quel modo, un clima di estrema frustrazione. A essere sinceri, in quella particolare audizione c'era anche una buona componente di teatralità. Sembrava quasi che i politici facessero a gara a chi strapazzava di più quei signori, a chi gli dava più ceffoni. In sostanza, lei di Bank of America si è dato un compenso di 30 milioni di dollari solo per aver accettato i nostri soldi. Non so di cosa parla. L'attenzione di tutti è rivolta a Ken Lewis. Bank of America, di cui è amministratore delegato, ha ricevuto oltre 45 miliardi di dollari di aiuti dal governo. Era evidente che eravamo stati chiamati per essere lapidati in pubblico, e così è stato. Ho preferito prenderla così, mi dicevo, cerca di sopportare. Passerà anche questa. Molti sostengono che alcune delle nostre maggiori banche potrebbero alla fine essere nazionalizzate. Lei ritiene che la sua banca debba essere considerata tra quelle a rischio? Parla con me? Sì. Assolutamente no. Non capisco perché mi fa questa domanda. Una sorta di primo grado durato tutta la giornata. In risposta all'onda montante di rabbia dell'opinione pubblica contro le banche che hanno ricevuto massicce iniezioni di denaro proveniente dalle tasche. Lo staff politico della Casa Bianca inizia a preoccuparsi. La rabbia popolare potrebbe rivolgersi contro lo stesso Obama. Questa volta ci vuole una punizione esemplare. David Axelrod, il primo consigliere politico di Obama, voleva assolutamente lo scalpo di qualcuno. Anche Robert Gibbs, ha detto stampa, oltre che consigliere di grande esperienza, voleva vedere rotolare qualche testa. Persino per Larry Summers qualcuno doveva cadere. A quel punto c'era da decidere. Vogliamo far fuori l'AD di Bank of America? Summers e lo staff politico non hanno dubbi. È arrivato il momento di cacciare un manager come Ken Lewis. In questo modo, alle banche e all'opinione pubblica arriverebbe un messaggio forte e chiaro. I responsabili della crisi finanziaria devono pagare. Secondo Summers, c'era bisogno di un cambiamento almeno al vertice di una banca. Bisognava mandare un segnale, far capire che tutto questo non sarebbe rimasto impunito. La Royal Bank of Scotland è grande quasi il doppio di Citigroup. Sapete cosa ha fatto il governo britannico? Ne ha assunto il controllo e ha licenziato l'amministratore delegato. E la sapete un'altra cosa? Quando abbiamo avuto il problema con le case automobilistiche, siamo intervenuti mandando via la D. Perché non licenziare i manager di quegli istituti finanziari finiti nell'occhio del ciclone? Da parte di Obama sarebbe una mossa coraggiosa, ma Tim Geithner non è d'accordo. A Obama fa sapere che egli non intende associarsi a quella che definisce una giustizia da Vecchio Testamento. Geithner non voleva farlo perché avrebbe comportato un rischio. Avrebbe cioè indotto a pensare che il governo intendeva interferire nella gestione di quelle banche e questo avrebbe fatto fuggire gli investitori privati. Geithner ritiene che il sistema bancario sia ancora troppo fragile. Questa idea che il sistema finanziario fosse troppo fragile e che non si dovesse fare niente per timore di minare la fiducia dei mercati è molto importante e illuminante per capire Geithner. Aveva una grande paura di fare cose che potessero turbare i mercati e diffondere il panico, quindi tendeva a essere molto delicato, camminava intorno al problema in punta di piedi. Per Geithner le banche sono come un paziente in condizioni critiche. Dunque non c'è che da applicare il primo principio della medicina. La prima regola si ispirava alla medicina, al giuramento di Ippocrate. Primo, non fare danni. Francamente, molti di noi temevano che molte delle idee che venivano avanzate potessero fare dei danni. Continuiamo dopo la pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Mix 24. I gialli della storia. Su Mix 24 stiamo raccontando la crisi economica del 2008. L'amministrazione Obama si è insediata alla Casa Bianca ed è sulle sue spalle che sta ricadendo il compito di trovare una soluzione. Intanto in tutti gli Stati Uniti ci sono proteste e manifestazioni durissime. Inoltre il piano concepito da Tim Geithner, il ministro del tesoro di Obama, non convince. Geithner ritiene che non sia ancora il momento giusto per una riforma di Wall Street. Alla Casa Bianca però ha un formidabile avversario. Larry Summers. Il problema con Larry Summers è in sostanza che voleva fare il ministro del tesoro e in alcuni casi, quando parlavi con certe persone, era come se il ministro del tesoro fosse effettivamente lui. Economista molto stimato, Summers è convinto che Wall Street sia ormai in pezzi e che l'unica strada sia una riforma aggressiva. Riteneva che le perdite ammontassero a migliaia di miliardi di dollari e che il problema andasse risolto con provvedimenti drastici e coraggiosi. Summers concepisce un piano audace. Il suo piano era ristrutturare le principali banche troppo grandi per fallire. Summers vorrebbe nazionalizzare e smembrare almeno una di quelle banche troppo grandi per fallire. Il discorso di Larry era: e se invece di salvare quegli istituti li ristrutturassimo? Scorrerà del sangue a Wall Street, molto sangue. Wall Street non sarà più quella di prima, dovrà essere ristrutturata. A preoccupare Summers sono proprio quegli istituti troppo grandi per fallire. Citi, Wells Fargo, Bank of America, la nuova generazione di superbanche. Non facevano che comprare. Compravano una banca, poi un'altra, e diventavano sempre più grandi. Anche se venivano comprate da qualcuno, alla fine erano loro ad assumere il comando. Quando arriva la crisi, quelle banche sono talmente gigantesche e interconnesse tra loro che il governo capisce che occorre salvarle ad ogni costo. Il loro fallimento potrebbe far crollare l'intera economia. È vero quello che si dice. Sono troppo grandi per fallire. Il sistema finanziario dipende troppo da loro e di conseguenza noi, i contribuenti, abbiamo deciso che non avremmo permesso loro di fallire. Summers è convinto che alcune di queste banche troppo grandi per fallire siano ormai sull'orlo del baratro. Per lui è il momento giusto per intervenire in modo drastico. La sua idea era: dobbiamo subentrare noi, chiudere, nazionalizzare gli istituti più deboli. Sarebbe una lezione esemplare. Tim Geithner, invece, è in totale disaccordo. Considerata la vulnerabilità delle banche, secondo lui Summers sta giocando con il fuoco. Farsi carico di un istituto finanziario come quelli è come spingere un macigno giù per una montagna. Devi essere sicuro di avere abbastanza potenza di fuoco da impedire al macigno di precipitare fino in fondo. March 15, 2009. Obama convoca una riunione. È lo scontro decisivo tra Summers e Geithner, la resa dei conti. Fu una riunione straordinaria, 6 ore di verifica serrata in cui il Presidente degli Stati Uniti, a volte assistito da Larry Summers, poneva le domande più scomode, sollevando tutte le obiezioni che venivano formulate all'esterno. Summers e i suoi alleati criticano gli stress test di Geithner. Non sono abbastanza aggressivi, dicono. Gli stress test fanno parte di una specie di truffa all'americana. Molti esponenti fuori e dentro l'amministrazione temevano che gli stress ai quali sarebbe stato sottoposto il sistema non corrispondessero a stress reali. Io sono uno di quelli che hanno criticato gli stress test perché temevo che la scala di valutazione sarebbe stata aggiustata in modo da ottenere i risultati che uno voleva. Non è così difficile truccare uno stress test e fare in modo che un istituto sembri più sano di quanto sia. Ma Geithner non ha nessuna intenzione di fare marcia indietro. Tim sosteneva che gli stress test fossero sufficienti, che fossero una misura concreta. Summers ribatteva, non è così, è come restare in vigile attesa. Tim era furente, non è vigile attesa, non è stare a guardare, è agire. E Larry, non è agire come si dovrebbe. Dobbiamo farla finita con i palliativi. Sotto lo sguardo del presidente degli Stati Uniti, Tim Geithner resiste agli attacchi di Larry Summers. Il ministro Geithner rispose sempre in modo metodico e molto chiaro, sostenendo che il piano che avevamo preparato era quello che presentava le migliori probabilità di successo e la minore percentuale di rischio. E ogni volta che qualcuno sollevava un'obiezione, lui replicava senza scomporsi. Obama ascolta. Si chiede se sia davvero il caso di nazionalizzare una grande banca, se gli stress test di Geithner siano davvero la soluzione migliore. Per il momento, il presidente tace. L'economia è avvitata in una vera e propria caduta libera. Quando usciremo dalla recessione? Due settimane dopo, alla Casa Bianca vengono convocati i principali banchieri americani. Ora il presidente vuole parlare con loro. Deciso a richiamare alle loro responsabilità i maggiori banchieri del paese, oggi il presidente Obama incontrerà gli amministratori delegati. 13 banchieri erano stati convocati tutti insieme per un incontro con il presidente degli Stati Uniti. Si aspettavano una sfuriata. Sapevano che il presidente avrebbe colto l'occasione per dare sfogo alla rabbia dell'opinione pubblica. I banchieri temono di essere costretti ad accettare riforme drastiche. Ad esempio una stretta contro quegli istituti troppo grandi per fallire, un tetto ai compensi e ai bonus per i dirigenti, o magari l'obbligo di rifinanziare i mutui di quei proprietari di case ridotti alla fame. Al momento di entrare in quella stanza, i banchieri erano nervosi come bambini al primo giorno d'asilo. Erano uomini potentissimi, abituati a guidare dei veri imperi della finanza, ma sapevano che stavolta potevano finire sconfitti. I grandi manager non sanno cosa aspettarsi. Se la giustizia da Vecchio Testamento di Summers o il cauto incoraggiamento di Geithner. Per loro è il momento di sapere cosa ha deciso il presidente. Obama entra, molto professionale. Qualche breve scambio di cortesie, poi Barack Obama prende la parola. Quando si è rivolto a noi, il presidente è stato molto chiaro. Io sto fra voi e le forche, fareste bene a prenderne atto. I banchieri, in buona sostanza, avevano già deciso di rendersi disponibili a fare il necessario per risolvere il problema e di accettare un ritorno del settore pubblico a fianco della grande impresa. Man mano che la riunione prosegue, con grande stupore dei manager, il presidente non sembra avere nessuna intenzione di ingaggiare un braccio di ferro. La cosa interessante fu che nelle dichiarazioni che seguirono, e per tutto il resto della riunione, Obama abbandonò ogni riferimento alle forche con cui aveva cominciato. Infatti, subito dopo disse, signori, qui siamo di fronte a un disastro delle pubbliche relazioni che si sta trasformando in un disastro politico, e io sono qui per dare una mano. Io l'ho interpretato come una specie di giro di boa. Le banche sono i catalizzatori che possono tirarci fuori dal pantano in cui siamo finiti. Uno può parlare finché vuole del passato, ma a un certo punto bisogna guardare al presente e al futuro. Mi è sembrato questo il senso delle sue parole. Penso che il presidente si consideri una persona pragmatica. E anch'io penso che lo sia. Superiamo questo momento. Non chiediamo la luna. Facciamo tutto quello che possiamo, ma facciamolo con la certezza che sia possibile ottenere risultati affrontando la questione con un po' più di cautela. Ai banchieri il presidente non chiede impegni irrevocabili. È stata un'occasione mancata. Era in una stanza piena di amministratori delegati terrorizzati. Obama era nella posizione di avanzare delle richieste e non l'ha fatto. Non voleva turbare il mondo delle banche. Voleva averle al suo fianco in modo da mantenere la situazione più calma possibile. In sostanza tutto sarebbe andato avanti come prima. Barack Obama ha deciso. Ha vinto Geithner. Non ci sarà nessun atto aggressivo contro Wall Street. Era come se Obama avesse due facce. In pubblico si scagliava contro i potenti banchieri. In privato, quando era con i banchieri, voleva farli salire a bordo. Buonasera, sono John Stumpf della Wells Fargo. I banchieri fanno sapere che il presidente è stato indulgente con loro. Abbiamo avuto un bellissimo incontro con il presidente. Il messaggio è che siamo tutti sulla stessa barca. Siamo molto soddisfatti dello spirito di cooperazione tra il gruppo e la Casa Bianca. Penso che i banchieri siano usciti da quella riunione consapevoli di averla scampata bella. A quel punto potevano affrontare le telecamere e far credere che ci fosse una perfetta armonia, una piena collaborazione con il presidente e dare quell'immagine di fiducia e rassicurazione. Usciamo da questo incontro consapevoli che ci siamo dentro tutti allo stesso modo. Siamo ansiosi di promuovere la ripresa economica. Grazie. I banchieri che escono da quella riunione hanno già ricevuto oltre 180 miliardi di dollari dal governo federale, praticamente senza condizioni. Senza alcuna condizione? Chiunque altro, chi compra una casa, chiunque chieda un prestito, chiunque abbia una piccola impresa, un'attività, non solo non riesce a ottenere un prestito, ma se riceve qualcosa deve accettare condizioni estremamente onerose. In tutta coscienza e in buona fede, come puoi non chiedere alle banche, non imporre alle banche delle condizioni per il fatto che le stai salvando? Questa cosa ha dell'incredibile. Nessuno ancora lo sa, ma molte di queste banche attingono a un'immensa riserva di liquidità messa a disposizione dalla Federal Reserve per evitare la paralisi della gestione ordinaria. Una prassi iniziata oltre un anno prima durante l'amministrazione Bush. Ora sappiamo che quelle banche non erano in salute. Quelle banche erano sull'orlo della bancarotta. Abbiamo scoperto che i maggiori istituti bancari degli Stati Uniti prendevano in prestito una valanga di soldi, molti più di quanto chiunque avrebbe immaginato. I dettagli della vicenda dei prestiti vengono alla luce solo quando il canale televisivo Bloomberg decide di andare fino in fondo e porta il caso davanti alla Corte Suprema. In pratica è venuto fuori che Wall Street aveva problemi molto, ma molto più profondi di quanto si potesse immaginare. Il giorno di picco del 2008, il 5 dicembre 2008, le banche avevano attinto a prestiti per 1.200 miliardi di dollari in un solo giorno. E di quei 1.200 miliardi, anche se non necessariamente in quello stesso giorno, Morgan Stanley da sola ne aveva presi 107. 107 miliardi di dollari di prestiti in un solo giorno. Citigroup, più di 99 miliardi di dollari in un giorno. Bank of America, 91 miliardi di dollari in un giorno. Royal Bank of Scotland, UBS, tutte le più grandi banche del mondo avevano contratto prestiti per molto più di quanto si potesse immaginare. Quei prestiti erano parte di un intervento senza precedenti nel sistema finanziario. Complessivamente la Federal Reserve ha messo a disposizione più di 7.700 miliardi di dollari in prestiti, investimenti e garanzie a istituti finanziari in tutto il mondo. I dati dimostrano che la Fed prestava denaro non solo a banche americane, ma a istituti di tutto il mondo, e per importi a dir poco sbalorditivi. Un'altra grande banca è in attivo. La gente comincia a sperare che forse queste banche possano appianare i loro problemi. Poi, nella primavera 2009, da New York arrivano notizie positive dalle banche. Le banche salvate dal governo registrano profitti per miliardi di dollari. Dobbiamo indignarci o esultare? Giusto in tempo per gli stress test di Tim Geithner. Mandarono gli ispettori della Fed in giro per le banche per verificare che avessero sufficienti capitali. Un'operazione è durata 3 mesi. Gli ispettori lavoravano insieme come non era mai avvenuto, controllando i libri contabili di ognuna di quelle banche. Oggi il governo ha dato l'annuncio ufficiale dei risultati degli stress test finanziari. Oggi è il giorno delle pagelle. Oggi sono arrivati i risultati ufficiali. 7 maggio 2009, il governo è pronto a divulgare i risultati. Queste operazioni introducono un nuovo livello di trasparenza e chiarezza nello stato di salute del sistema bancario nazionale. Esse rimpiazzeranno... In base agli stress test di Geithner, le 19 maggiori banche americane risultano sostanzialmente sane. Presto, si dice, restituiranno addirittura il prestito ricevuto. Rimpiazzeranno gli investimenti pubblici con capitali privati. Tim Geithner riteneva di aver salvato il sistema finanziario e di averlo fatto a costi bassissimi. Tim Geithner si concede un giro d'onore. Quando sono arrivati i risultati dello stress test, che erano molto buoni, è andato alla Casa Bianca per mostrare alcuni rapporti al presidente, quasi a dire, vede presidente che avevo ragione? Il presidente sembra soddisfatto, e con lui perfino alcuni degli avversari di Geithner dentro la Casa Bianca. La sua poltrona di ministro del tesoro sembra al sicuro. Ripensandoci, penso che sia stata una manovra estremamente efficace. Se non altro, il settore finanziario è tornato ad essere molto redditizio. Il problema è che in questo momento è l'unico a essere molto redditizio e questo giustifica la rabbia dell'opinione pubblica per salvataggi statali che non hanno aiutato abbastanza la classe media. Siamo incazzati neri e tutto questo non lo accetteremo più! Centinaia di manifestazioni in tutti i 50 stati. Sono venuti a manifestare la loro rabbia in grandi raduni e in piccoli campi. Agosto 2009. Il salvataggio di Wall Street alimenta la protesta di un nuovo movimento, il Tea Party. Spesa pubblica fuori controllo. Vogliono lanciare un messaggio alle società tassate. Oggetto della protesta sono l'assistenza sanitaria, le tasse e naturalmente il salvataggio delle banche. C'era in giro molta rabbia, una grandissima preoccupazione per quello che stava accadendo. Gli americani ce l'avevano con una persona in particolare. Erano infuriati. I lavoratori americani di tutto il paese avevano ragione a sentirsi offesi, a sentirsi frustrati per quello che vedevano. Quelle banche dovevano essere considerate responsabili. Ma molta rabbia è diretta personalmente contro Barack Obama. Al pacchetto di incentivi del presidente Obama e in particolare al bilancio. Obama è un marxista, un socialista. Siamo il popolo e finalmente ci siamo svegliati. Non ci fermeremo finché non avremo fatto cadere questo governo. C'era questa nuova forza sulla scena politica americana e la Casa Bianca non aveva un piano per contrastarla. Si erano fatti cogliere di sorpresa e anche sul fronte della comunicazione erano maldestri. Da mesi ormai il capogabinetto della Casa Bianca, Rahm Emanuel, preoccupato per le proteste, suggerisce al presidente di fare qualcosa. Rahm Emanuel si rendeva conto che non si possono iniettare centinaia di miliardi nel sistema bancario senza rassicurare gli americani che questa cosa non accadrà più. Rahm Emanuel è molto risoluto e nonostante fosse favorevole all'approccio in punta di piedi e a Wall Street, stavolta diceva a Obama, presidente, è il momento della giustizia da Vecchio Testamento. A questo punto Obama decide di rispolverare un argomento chiave della sua campagna elettorale, la riforma di Wall Street. Il presidente Obama oggi è a New York, dove pronuncerà un importante discorso a Wall Street. In settembre, nel primo anniversario della grande crisi, Barack Obama torna a Wall Street. Una volta ancora sostiene l'urgenza di una riforma e promette che spingerà affinché venga fatta una legge che trasformi il sistema bancario. Provvedimenti immediati per riformare la regolamentazione del settore finanziario. Abbiamo visto salvataggi, stress test, unità di fine dei programmi del tesoro e della Fed. Decise di fare una riunione letteralmente a due passi da Wall Street. Scendi dalla Federal Hall e sei nelle sale di contrattazione. Ci sono tutti i pesi massimi di Washington. I capigruppo del Congresso, Tim Geithner. Perfino Paul Volcker. Molti dei giganti di Wall Street però disertano l'incontro. In pratica, nessuno dei personaggi che contassero a Wall Street è venuto a sentire il discorso. Avevano tutti preferito rimanere in ufficio a lavorare. Non si sono nemmeno presentati al discorso. Jamie Dimon e Lloyd Blankfein. Non era certo un evento deciso all'ultimo momento. Avevano semplicemente di meglio da fare. Nessuno dei manager delle banche è stato licenziato né messo sotto inchiesta. È per questo che servono regole e norme di condotta forti che ci proteggano da rischi sistemici come quelli che abbiamo visto. I rappresentanti di Wall Street che erano venuti non facevano che guardare l'orologio. Parlavano delle vacanze estive. Dopo essere sopravvissuti a un disastro che loro stessi avevano provocato, avevano ripreso la vita di sempre. Se vai a tenere un discorso a Wall Street e quelli di Wall Street non si fanno nemmeno vedere, nonostante tu sia il presidente degli Stati Uniti, quale altro atto pubblico puoi fare per costringere quei signori a partecipare? Era come se pensassero di potersene lavare le mani. È stato un giorno molto difficile per Barack Obama. Non torneremo ai giorni dei comportamenti irresponsabili e degli eccessi sfrenati che sono stati al centro di questa crisi, in cui troppi erano spinti solo da avidità, dal successo immediato, da bonus gonfiati. Una volta che si sono calmate le acque, che le banche hanno ottenuto quello che volevano, che i ricavi hanno ripreso a salire, che la situazione si è stabilizzata, si sono completamente svincolati e la Casa Bianca non aveva più modo di costringerli a sedersi intorno a un tavolo. La Casa Bianca non poteva fare niente. Il 52% degli americani non approva il modo in cui il presidente Obama gestisce l'economia. A Washington gli sforzi di Obama per riformare il sistema finanziario vanno a infrangersi con un'altra riforma ritenuta prioritaria, quella dell'assistenza sanitaria. Sei legato mani e piedi a questa sciagura della battaglia sull'assistenza sanitaria. Tutte le energie dello staff politico della Casa Bianca sono assorbite dalla campagna sull'assistenza sanitaria. All'interno di Wall Street non c'era nessun interesse, nessun incentivo a fare una riforma strutturale del sistema bancario prima che fosse approvata la legge sull'assistenza sanitaria. Il dibattito sulla sanità si infiamma. La riforma di Wall Street viene lasciata al Congresso. Il problema erano i tempi. Era il 2010. E nel 2010 le banche si erano riprese, erano molto più aggressive, non erano più sotto il tallone del governo. Potevano annacquare gran parte del progetto di legge, comprare senatori, fare un po' quello che volevano. Sul Congresso cala un esercito di lobbisti. Avevamo un sistema finanziario, singole banche, che erano state salvate dal governo degli Stati Uniti e dalla Fed e che adesso usavano quei soldi per influenzare il governo affinché approvasse regole meno rigide per loro. La stragrande maggioranza del denaro per l'operazione di lobby veniva da Wall Street, che assoldava i migliori in assoluto. L'azione dei gruppi di pressione è stata a dir poco incredibile. Le banche hanno dispiegato su Washington tutte le armi possibili e immaginabili. E il risultato lo vediamo tutti. Una serie infinita di scappatoie e furbizie. Questa vicenda ci ha insegnato una cosa. Che se lasci un varco anche piccolissimo, una minuscola scappatoia, a Wall Street, che sono scaltri come volpi, riusciranno a infilarcisi dentro. Grazie ai lobbisti, tutte le proposte fondamentali per sciogliere quelle banche troppo grandi per fallire vengono tenute fuori dal progetto di legge. A quasi due anni dal quasi collasso dell'intero sistema bancario, un altro meltdown dell'economia. 21 luglio 2010. Il presidente Barack Obama firma quella che oggi è nota come la legge Dodd-Frank. E infine, grazie a questa legge, al popolo americano non sarà più chiesto di pagare il conto degli errori di Wall Street. Non ci saranno più salvataggi finanziati con i soldi delle tasse. Punto. Il progetto di legge contiene alcune regole contro i rischi assunti dalle banche, tutele limitate per i risparmiatori e nuovi poteri per i regolatori. Ma anche alcuni membri dello staff della Casa Bianca ammettono che queste riforme potrebbero non bastare. Penso che il punto debole stia nel fatto che per superare certi ostacoli legislativi sono stati lasciati irrisolti così tanti nodi che devono ancora essere prese decisioni di grande importanza. Questo però sta avvenendo in un contesto che non è necessariamente soggetto al controllo dell'opinione pubblica e dove i lobbisti hanno modo di intervenire e condizionare le scelte. Temo che non abbiamo imparato nulla dal disastro che è avvenuto. In un'epoca con un grado così alto di interconnettività, temo proprio che quella lezione non ci abbia insegnato nulla. I sostenitori di Barack Obama affermano che il suo successo più grande sia stato salvare il sistema finanziario dal crollo definitivo. E tanti temono che i problemi veri siano ancora tutti da risolvere. Riprendiamo domani, sempre su Mix 24, a raccontare la crisi economica americana.